capito, ovvio. E poi qua a casa mia non ci puoi venire perché adesso metti i vigili, hai capito? Ti faccio mettere dentro, hai capito? Assieme a quella grande bagassa tua.